fossi io, viene lento di vagare, una musica brutale incendiò nostra passione. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Mi piace spesso riflettere sul fatto che chi fa radio è come il Mago di Oz. È un omino piccolo e insignificante, nascosto dentro una grande scatola sonora che rende potente e terrificante la sua voce. Parlammo il 4 maggio 2009 del Mago di Oz, il personaggio di fantasia che maggiormente racchiude in sé questa misteriosa formula dell'essere giganteschi quando si è piccoli grazie a qualcosa o qualcuno che amplifichi la nostra voce. Siamo reduci da aspre battaglie in cui esiste ancora una fetta dell'umanità che si rifiuta a immaginare il fatto che tutti ormai siamo immersi in un grande mondo di rappresentazione. Non esiste più una linea di demarcazione tra ciò che appartiene al grande racconto dell'umanità e la vita quotidiana, concreta dell'umanità stessa. Noi guardiamo noi stessi rappresentati e molte volte perdiamo la cognizione del fatto che noi siamo cosa e la nostra rappresentazione è altra cosa. Sembra un astruso concetto filosofico, ma immaginate che questa è in fondo la chiave che alimenta il carburante della contemporaneità. Noi vediamo un mondo continuamente raccontato attraverso una sorta di lettura che consideriamo aliena al nostro vivere quotidiano. Immaginate la polemica che c'è stata sulle veline proposte come candidate al Parlamento europeo. Immaginate quante persone si sentono se interrogate di prendere le distanze con l'atroce, irreale, effimero mondo della televisione. Immaginate quanto sia facile ergersi a testimoni e giudici di tutti coloro che barattano il loro privato, la loro individualità, con una meravigliosa e gloriosa espressione della loro vanagloria, del loro ego, attraverso la celebrazione televisiva. Beh, immaginate che tutto questo fu pensato nella sua chiave risolutiva non molti anni fa. Non destate la collera del grande potente Oz! Ho detto tornate domani! Se lei fosse davvero grande e potente, manterrebbe le sue promesse! Osate dunque criticare il grande potente Oz? Oh, ingrate creature! Potete già considerarvi fortunati se vi concedo udienza per domani e non tra 10 o 20 anni! Il grande, meraviglioso, potente Mago di Oz è un romanzo per ragazzi degli inizi del secolo precedente, del 1900, che parla di questo cammino iniziatico attraverso mille perplessità e mille difficoltà della giovane Dorothy alla ricerca del risolutore di tutti i problemi, appunto il potentissimo Mago di Oz. È stato tratto un famoso film del 39 con Judy Garland, importantissima e divertentissima icona di questa ragazza che con il suo spaventapasseri, con il suo leone, con il suo automa metallico andava alla ricerca del Mago di Oz. Il Mago di Oz era colui che sembrava avere la chiave di risoluzione dei loro problemi. Il Mago di Oz nel film, lo ricordo, è rappresentato come un grande faccione enorme, verde, dalla voce tonante, di fronte a cui tremebondi alla fine della loro avventura i nostri quattro eroi arrivano. E al cospetto del Mago di Oz si sentono atterriti del fatto che sono di fronte a tanta magnificenza, tanta potenza. Fino a che a un certo punto il cagnolino di Dorothy scosta il tendaggio che copre alcune parti laterali della grande macchina fumosa e meravigliosa che alimenta questo idolo parlante del Mago di Oz e ci si accorge che in realtà quella era tutta una macchina scenica. Il Mago di Oz ha un omettino piccolo, modesto, anche simpatico, ma nulla di che, muovendo leve, pulegge e parlando dentro un grande amplificatore, dava l'anima al grande Mago di Oz. Il grande potente Oz ha parlato! Non fate caso a quell'uomo nascosto dietro alla tenda! E lei chi è? E chi sono io? Io sono il grande potente mago di Oz. Su, serio? Certo, non sì. Non posso crederci. Invece la verità, qui non esiste nessun altro mago oltre a me. Brutto imbroglione! Brutto. Sì, imbroglione è la parola giusta, sono un imbroglione. Lei è un uomo molto cattivo. No, bambina mia, io sono un bravo uomo, te l'assicuro, solo che sono un pessimo mago. Avevi promesso di dare il cuore al boscaiolo di latta e di dare il coraggio al leone codardo. Che bello lo spaventoloso. Ma in fondo tutti possono avere un cervello, è una merce assolutamente comune. Tutti ce l'hanno, ogni più piccola creatura che striscia sulla terra o che nuota nelle acque limacciose ha un cervello. Il mago di Oz in realtà non ha nulla di umano né di superumano. Il mago di Oz era un meccanismo, era una protesi, era la protesi che amplificava i poteri di questo omino, poi pieno di saggezza, che in realtà il vero software che animava questa macchina era il buon senso di questo ometto, però perfetto conoscitore dei meccanismi e della suggestione della psiche umana e della necessità di avere degli strumenti che artificialmente e ci diano grande possenza, si era messo ad animare e aveva creato il personaggio del mago di Oz, ma il mago di Oz era solo un piccolo e misero omino. A me sorge una domanda, ma la televisione è sempre stata così? Il mago, la macchina del mago di Oz è sempre stata così? Non c'è stata una televisione, quella di quando ero bambino, che era più vera, era meno funzione, era meno apparenza? Una volta si sapeva quello che era vero in televisione, o perlomeno era probabilmente vero in televisione, e oggi invece tutto può essere finto. Può essere finto anche la reazione di Fazio all'altro giornalista, come può essere finta qualsiasi reality. Non si capisce più dov'è il vero e dove non è il vero. Questo ascoltatore ci pone il problema. Cercare il senso, cercare laddove sia il vero, qual è la realtà e qual è la contraffazione della realtà. Esiste una linea di discrimine, esiste una differenza fra la realtà intesa come reale, concreta, consistente, poi cosa significa, da quale punto di vista, e la realtà contraffatta. Questo è un grande problema che si pone a tutti coloro che osservano il mondo raccontato dalle grandi macchine, meravigliose macchine di racconto dell'umanità, che in fondo altro non sono che questa sorta di esoscheletro del mago di Oz, che in realtà è un meccanismo amplificatore della realtà, distorsore della realtà. Noi siamo abituati ormai a una visione distorta della realtà come la intendevamo da noi miseri uomini occidentali, prigionieri delle percezioni dei nostri sensi, delle nostre ideologie e delle nostre sovrastrutture, ma qualcosa è profondamente cambiato. Quando ero bimbo il telegiornale era veramente per antonomasia il punto in cui si parlava delle cose vere, si faceva cronaca. A oggi invece le pubblicità delle trasmissioni che vengono in prima serata, che vengono fatte all'interno del telegiornale, danno anche a questo una sorta di finzione, quasi che fosse tutto un baraccone. Non è forse questo? Questo mi inquieta, perché a oggi la televisione, perdendo qualsiasi credibilità, penso che abbia spostato totalmente quella tenda che proteggeva il mago di Oz. Qual è il limite, qual è il lembo della tenda che protegge il mago di Oz e qual è la maniera per poterlo sollevare? E poi altra domanda, ma non interessa veramente sollevare quel lembo? Interessa veramente capire cosa ci sia dietro al grande e fantastico meccanismo di artefazione della realtà? Non viviamo già noi, non siamo già noi degli artefatti, non siamo già prodotti di quella realtà. Io cercavo tempo fa di farlo capire alle persone così indignate per il fatto che esistesse la categoria delle veline, la categoria delle letterine, la categoria delle futili ragazze dedite al compiacimento dell'occhio di un prodotto televisivo che ci fa vedere un mondo felice. Ma io vorrei far capire che in realtà non appartengono a una razza aliena distante dalla nostra esperienza personale. In Italia ogni giorno si fanno casting mirabolanti, in ogni paese, ogni sagra paesana, in ogni festa parrocchiale c'è qualcuno che ambisce di uscire dalla zona liminare della propria grigia esistenza e entrare nel grande mondo della contraffazione. E questo lo dice qualcuno che conosce benissimo la macchina del mago di Oz. Io mi sono molte volte, ho palesemente detto, ma anche perché è un gioco molto subdolo e molto ingannatore e affascinatore, di dire e scoprire che sia il mago di Oz. Questo suscita sentimenti di tenerezza, suscita quell'abbandono delle riserve che si ha di fronte alla palese confessione di una propria debolezza, quindi fortifica l'idea del mago di Oz. Ma facendo radio da tanti anni, giocandomi tutta la mia esistenza, tutta la mia presenza, semplicemente sul modulare della voce davanti a un microfono, una voce che poi ti risenti nella cuffia, di cui puoi calibrare ogni minima vibrazione, ogni effetto, naturalmente io ho avuto a disposizione la macchina del mago di Oz, se no non mi sarei mai spiegato fenomeni come questo. Una mia opinione: analizzi la TV in modo perfetto e intelligente dall'uomo che sei. Continua, che in te abbiamo il nostro domani. Ti ho sentito un po' raffreddato, ti prego, riguardati, perché in questo momento ci sono molte persone a letto con influenza. E a proposito, volevo dirti che a casa mia, da quando hanno scoperto che sono una tua gruppi, tutti ti detestano. Per gelosia, chiaramente, no? Questa mattina sei particolarmente simpatico, sto morendo dalle risate, sono qui in ufficio e mi sto veramente divertendo, sei fortissimo, complimenti, ciao ciao. Oh, ciao Gianluca, finalmente mi hai fatto ridere, è bello ridere la mattina, dai, continua così, con passione, ciao. Io ho molto pudore a far ascoltare queste che sono le voci di lusinga che arrivano a tutti i conduttori radiofonici, ma arriveranno a chi fa televisione, chi ha visibilità, chi insomma ha il privilegio di usare la macchina del mago di Oz. Però questo mi danno un'esatta sensazione della realtà, ve la trasferisco come esperienza. Mai nessuno dice cose del genere negli ambienti di lavoro, negli ambienti familiari, nessuno te lo dice quando stai in autobus, quando stai in fila alle poste, quando stai per strada, quando ti relazioni concretamente con gli altri esseri umani. Quindi in realtà avere la corazza del mago di Oz è una cosa che rende, esalta ogni essere umano e rende felice ogni essere umano. Quindi è naturale che nella evoluzione delle macchine fantastiche di racconto della realtà, lentamente la profezia che esista soltanto un grande e potentissimo mago di Oz è andata diluendosi nel fatto che per tutti ci possa essere a disposizione una piccola e personalizzata armatura da maghetti di Oz. Quindi la televisione, il grande medium, il grande strumento di trapasso, di irrealtà, di fantastico, luogo in cui albergano gli archetipi dell'esistenza, è diventato un giochettino e quindi un fine, non più un mezzo, a disposizione di tutti. Questo come cambia la percezione tra reale e contraffatto, fra rappresentato e vissuto concretamente? Stefano Moriggi, filosofo della scienza e ormai abituale frequentatore della nostra trasmissione. Buongiorno Gianluca, sentendo quello che tu dicevi, anche le testimonianze dei tuoi ascoltatori, mi veniva in mente se nella televisione, in questa macchina di rappresentazione, sia proprio il posto quello per andare a cercare la realtà, sia il posto in cui cercare possibili discriminazioni addirittura tra verità e finzione. Dovremmo ricordarci, riprendendo il mago di Oz, che quando i protagonisti, Dorothy e i suoi compagni, giungono alla città dello smeraldo, devono indossare degli speciali occhiali per non essere accecati, e una volta che li hanno indossati, a ciascuno il mago appare sotto sembianze completamente diverse. Che cosa voglio dire con questo? Mi veniva in mente una intervista che vide protagonista Pierpaolo Pasolini molti anni fa, interrogato da Enzo Biagi, che certo è persona che ha sempre cercato di testimoniare la realtà e la verità dei fatti in televisione. Ciononostante Pasolini, e quella era la televisione che il tuo ascoltatore chiamava come quella che era ancora capace di dire la verità, in quella intervista... Sì, che è un po' Pasolini... anche un concetto molto romantico, scusami Stefano se ti ho interrotto, legato certo. Che è bello ciò che appartiene al passato, era piena di contraffazione anche con la televisione, era un cerimoniale triste e ammuffito di esaltazione di una sorta di monocolore ideologico, diciamo così. Esatto, infatti in quella intervista Pasolini, nonostante fosse interrogato su questioni serie, era insofferente rispetto a un linguaggio fatto di tempi, di ritmi, che avrebbero inevitabilmente contraffatto la verità di cui lui avrebbe voluto essere testimone. E nonostante Biagi avrebbe detto: ma lei può dire quello che vuole, e lui diceva: non conta, è il contesto in cui mi trovo che trasfigura inevitabilmente ogni testimonianza. E in Pasolini c'era la consapevolezza della potenza di un mezzo che nell'alterazione di un linguaggio si fa letteratura, diciamo, si fa narrazione e quindi trasfigura la realtà. Ora, Questo non significa che la trasfigurazione della realtà sia per ciò stessa negativa. La letteratura è capace, nella finzione, di testimoniare significati e valori che trascendono la verità, ma in qualche modo la superano nell'intensità. Ecco, adesso fermati un attimo, Stefano. Volevo introdurre un altro ospite che già ho conosciuto, ha conosciuto il nostro pubblico. Piero Vereni, buongiorno. Ciao, buongiorno. Piero Vereni è un antropologo, ricercatore all'Università degli Studi di Tor Vergata, ha scritto un libro, Identità catodiche, rappresentazioni mediatiche e appartenenze collettive. Un libro di cui abbiamo già parlato, edito da Meltemi, ma io vorrei invece porre a te un altro tipo di problema rispetto a quello che ha detto Morigi, quando si fa la narrazione e la trasfigurazione della realtà comincia a coinvolgere anche le nostre esistenze. Invece nella televisione proprio degli ultimissimi tempi, la televisione più apocalittica, notiamo un fenomeno che tu avevi già in parte anticipato nei tuoi libri, nel tuo pensiero, molto particolare. Mentre nel Mago di Oz, nella televisione tradizionalmente intesa come macchina di magnificazione delle qualità umane, veniva esaltato tutto ciò che era sintomo di potere, di saggezza, di splendore, di verità. La televisione, nelle ultime rappresentazioni dei vincitori di suoi reality, sembra aver consacrato il primato della sfiga. Io ti faccio alcuni esempi. Il vincitore dell'ultimo Grande Fratello, Ferdi Beriscia, il Rom, è fuggito, ha una storia terrificante di gommoni, di padri che lo picchiano, di guerre lambite e via dicendo. Marco Baldini, vincitore della Fattoria, un'altra storia da manuale, un giocatore indebitato fino al collo, salvato dagli amici e vince il reality. Non parliamo poi di Vladimir Luxuria, vincitrice dell'Isola dei Famosi, anche lì una storia tristissima di un ragazzo della provincia pugliese, mi sembra, costretto a imporre, giustamente far accettare alla sua comunità il suo desiderio di uscita dal genere di appartenenza della nascita, un'altra storia comunque strappalacrime. Ecco, oggi come mai si è così spostata la macchina del Mago di Oz e sembra voler esaltare quelli che vengono considerati momenti di passaggio, di svalori, perlomeno in una scala di valori tradizionale? Ma io penso che in parte dipenda proprio dalla necessità della televisione di garantire quella che sembra essere la sua funzione negli ultimi 30 anni. Cioè, in sostanza, cioè De Martino aveva detto che le classi subalterne stavano entrando nella storia, no? Io penso che la televisione abbia fatto gli ultimi 30 anni lo stesso lavoro nei mass media, cioè le classi subalterne entrano finalmente nei mass media come soggetti, non soltanto come spettatori, no? Da Portobello in poi, secondo me un po' la svolta è stata quella, credo, insomma, no? Tu l'avevi analizzato per primo quando parlavi di Clyde, il vincitore, esatto, di Amici, esatto, improvvisamente sì. L'albanese diventa l'eroe nazionale, non più quello che ci fa paura, che vediamo come clandestino, come attentatore alla nostra sicurezza. Sì, paradossalmente io la considero questa ancora la funzione, diciamo, di utilità sociale della televisione, no? Questa occasione di riscatto di quelli che tu chiami giustamente sfigati, insomma, Beriscia, Baldini, Luxuria, insomma, oppure... Cioè, non è che lo siano nella vita, sono delle icone di sfiga celebrate, sì. Anche artificiali, poi vediamo, il Rom non è tutt'altro che un Rom di quelli che ci vengono, di cui abbiamo paura, ci portino via il portafoglio nella metropolitana. Baldini sì, giocatore, ma non mi sembra che si sia mai impiccato, tagliato le vene per questa ragione. Luxuria, rispetto a tante altre tragiche storie, comunque un personaggio di grande successo, quindi sono artificiali e in parte anche appartenenti a biografie concrete e scritte sulla carne, rappresentazioni comunque di categorie di disastrati dell'umanità, no? Sì, sì, però una cosa forse che andrebbe aggiunta, Gianluca, credo, insomma, è la dimensione interattiva di questa vittoria. Sono tutti frutti del televoto, non ce lo dimentichiamo, insomma, no? È una specie di rivolta dal basso, insomma, di affermazione del lumpen proletariato e di se stesso, insomma, nella dimensione mediatica, mi sembra, insomma. Quindi spiega, tornando alla metafora iniziale del Mago di Oz, a questo punto i tanti postulanti di grazia dal Mago di Oz hanno in mano la macchinetta per essere anche loro Mago di Oz e quindi eleggono uno di loro a entrare dentro la macchina. Esattamente quello, cioè un po' come nel Mago di Oz, poi in realtà il leone scoprirà di avere il coraggio, insomma, l'uomino di lata scoprirà di avere la testa, il cuore e così via. Dorothy stessa saprà di avere ai piedi il mezzo che le permetterà di tornare fin dall'inizio. È un po' quello che sta succedendo, insomma, no? E quelli che guardano questo tipo di televisione, che è ancora la televisione generalista, no? Quindi le cosiddette grandi masse che non si sono ancora accorte di essere nicchie di utenti privilegiati, che non hanno la possibilità di accedere all'accesso alla pay, quindi della televisione digitale satellitare ultra fighetta, ma gli spettatori che vedono la televisione, basta, che appunto siamo noi comuni mortali, decidiamo di ribellarci all'idea che questa televisione possa essere in qualche modo elitaria e ribadiamo la sua vocazione profondamente democratica, anche in senso appunto democratica, in un senso di volgare. Ecco. Quindi il concetto, l'incarnare un'antropologia passatista significa di non rendersi conto che in realtà, e qua volevo alludere ai tanti scandalizzati quando si vede celebrato comunque qualcuno che ha un curriculum vitae legato alla frequentazione di questi luoghi, e non capire che in realtà la società è ormai si è orientata in questa direzione. Tu hai detto antropologia intendendo probabilmente un modello di umanità, io sì. Penso anche all'antropologia come disciplina, no? Esattamente, però sono già tu sei antropologo, scusa, sì, nominato impropriamente estesamente un termine che giustamente tu riporti alla giusta accezione. È bellissimo quello che hai detto, perché proprio mi permette di dire esattamente la stessa cosa per la mia disciplina come per l'oggetto dell'umanità, diciamo, insomma, no? Cioè, è ora di fare i conti con il fatto che, insomma, tra il folk tradizionale che piace tanto a una certa elite e il bieco invece pop che quell'elite continua a disprezzare, il confine è sempre più labile. Insomma, grazie, grazie Piero Vereni. Melog 2.0. Ti posso giurare che io sono 15 anni che non vedo la televisione e sto benissimo. Vogliamo altre cose, di un altro spessore, di un'altra qualità. Questo ci colpisce la nostra dignità di spettatori, per cui è meglio tenerla spenta. La televisione non dovrebbe essere un ricettacolo di occupazione e non lo sarà mai rispetto alla domanda di lavoro, però rischia di esserlo in una società che è quella dell'apparenza, in cui si vive esclusivamente in funzione di ciò che appare, non di ciò che è, per cui la maggioranza dei giovani richiede e necessita un essere nella irrealtà della televisione, come nell'irrealtà dei sogni. Stefano Moriggi, filosofo della scienza, vedi, c'è questa tenace resistenza a considerare la fuga verso l'irrealtà una caratteristica di questi sventati appartenenti al mondo giovanile. Noi anziani invece abbiamo solidamente i piedi nella realtà, ma allo stesso tempo, come diceva appunto Piero Vereni, l'antropologo che sta in ascolto, nostro ospite, perdiamo il senso della nostra contemporaneità. Ma guarda, continuo a pensare che in realtà la contrapposizione tra verità e finzione nell'analisi dei media e della televisione sia una battaglia di retroguardia. Lo aveva già capito Aristotele, che non aveva la televisione, quando nella Poetica scriveva che la poesia, la letteratura, generalizzando, è superiore alla storia, perché è più veritiera. E perché la finzione della letteratura è più veritiera? Perché è capace di testimoniare i valori che la contingenza dei fatti storici non sono in grado di fermare, per l'appunto, nel tempo. Quindi non è una discussione su verità e finzione, è una discussione su cosa si fa della finzione. Questo è il problema. E la puntuale e profonda analisi che l'antropologo ha fatto poco fa, a mio parere, testimonia un uso anestetico e pedagogico della funzione televisiva che è insopportabile. I Rom non hanno, come tu dicevi, la faccia di quelli che vincono il Grande Fratello. Gli omosessuali vivono tragedie che non riflettono la carriera, sotto i riflettori di Vladimir Luxuria. C'è una pedagogia anestetica insopportabile nell'uso della finzione. Chi si rovina per il gioco finisce veramente male, non è un personaggio noto, esatto. Famoso e coccolato. È assolutamente sì, per cui insisto, per me non è un problema di contrapporre la realtà, la vita e la finzione, semmai è pensare come si utilizza la finzione, che può essere uno strumento utilissimo, ma questa pedagogia anestetica profonde valori insopportabili, happy end a non finire, che raccontano vite che non trovano effettivamente corrispondenza nella realtà, crea nello spettatore frustrazione probabilmente, e dall'altra parte la ricerca di una verità che forse dovrebbe trovare al di fuori della televisione. Ecco, Piero Vereni, ricordo, antropologo a Tor Vergata, Roma, autore di Identità catodiche per Meltemi. Oggi il livello di contraffazione è la chiave espressiva più conosciuta da tutti nella televisione. Tutti sappiamo quanto sia alto, anzi, è una macchina meravigliosa di contraffazione nella quale si entra e si gioca, ci si mette in gioco, si fa parte di questa contraffazione. Quindi il vero fruitore della televisione sa perfettamente che è la macchina del mago di Oz, e nonostante questo la guarda con attenzione, con interesse, si sente coinvolto da questo gioco. Come te lo spieghi? Ma secondo me dipende proprio dal fatto che è possibile oggi applicare quel meccanismo della nostalgia da cui eravamo partiti, insomma, no? Cioè giocare oggi in una macchina così, in cui i meccanismi sono così evidenti, ci permette paradossalmente di provare nostalgia, che ne so, per il telegiornale dell'era Bernabei, che era un trionfo del mandarinismo democristiano, che non aveva niente di vero. Paradossalmente, avere la consapevolezza che i giochi sono fatti, che il trucco è svelato, ci permette di rimpiangere un'epoca in cui ci illudiamo che quel trucco non c'era. Io penso che il meccanismo di fondo della nostalgia sia questo, e quindi il cinismo attuale ci permette di fantasticare su un'epoca appunto romantica in cui questo cinismo non dominava. Così ci illudiamo. Però ha anche un grande vantaggio, ci storicizza la nostra misera autobiografia, abbiamo l'impressione di aver lambito delle epoche distanti dalla percezione contemporanea, la nostra storia, mi ricordo ai tempi di Campanile Sera, mi ricordo quando Mike faceva Rischia Tutto, la grande novità di questi giorni, ho letto Mike, riporterò Rischia Tutto a Sky, ma tu pensa a te che squarcio di profonda conoscenza che aprirà nelle nostre menti. Questo è in fondo un po' il grande merito della televisione, macchina se vogliamo di estrema dissoluzione, di allontanamento dalla centralità, ma macchina che racconta in maniera molto molto profonda la nostra identità e la nostra realtà. Ma c'è un altro passo avanti che vorrei fare con i miei ospiti, che è quello delle icone della rappresentazione del reale. Noi per molto tempo abbiamo dato valore di certezza a ciò che passasse per la televisione, è stato detto in televisione, è stato visto in televisione, oggi non lo dice più nessuno, oggi viene detto ti ho visto in televisione come una patente di celebrità, di appartenenza a un mondo di eletti. Lo stesso vale per la fotografia, le fotografie sono state dall'invenzione in poi della tecnica fotografica, che parimenti è stata inventata insieme alla foto, la maniera di artefare la fotografia, di rappresentare universi artefatti. Immaginate i primi daguerrotipi che davano l'esistenza ai fantasmi, agli ectoplasmi delle sedute medianiche delle sorelle Fox. Quindi nasce la foto, ma nasce anche la possibilità di truccare la realtà con la foto. C'è uno studio recente che è stato fatto da un collega di Repubblica, Michele Smargiassi, Un'autentica bugia, pubblicata da Contrasto, che è una rassegna di disvelamento di quanto la realtà iconografica, che sembrava essere strumento di grande certezza, ciò che appare nei giornali, le foto a corredo dei pezzi, in realtà è una storia anche di grandi nefandezze, di grandi macchine del mago di Oz. Michele, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, io recentemente ho visto, non è il tuo giornale, è un altro giornale, Corriere della Sera, in occasione del 25 aprile, la storia dietro la foto, la famosa foto delle tre partigiane col fucile in mano che tengono testa a un corteo di Milano Liberata, è una foto che ha fatto la storia, l'ho vista pubblicata in tutte le feste di ricorrenza degli ultimi 50 anni. Posa, questo ormai si sa. Gli ultimi 50 anni, però è venuta fuori che dietro quella foto c'è una storia anche drammatica, in realtà due erano sorelle, una ha fatto la foto posando il fucile, ha ucciso la sorella, quindi c'è sempre una storia dietro una foto. Ecco, tu quante ne identificate di foto con delle storie da raccontare che svelano universi impensabili rispetto a ciò che rappresentava? Ma io alcune centinaia, devo dire, alcune sono raccontate più per esteso, altre meno, se ne potrebbero trovare delle migliaia, perché la storia della fotografia è tutta una storia di bugia, insomma, la fotografia mente per natura. Non ha... La cosa particolare è che, nonostante abbia dato molte prove della sua capacità di mentire, la fotografia continua a essere ritenuta, almeno retrospettivamente, una testimone sincera del mondo. Insomma, è una specie di condanna uguale, contraria a quella di Cassandra, no? Cassandra diceva la verità e non veniva mai creduta. La bugia sa di, la fotografia sa di dire le bugie e poi viene continuamente creduto, o almeno è stata creduta per 170 anni. Tanti, sì, è vero che nel tuo libro tu hai messo, e non potevano mancare nella storia della contraffazione, le visioni soprannaturali, i fantasmi che apparivano dietro questi signori pensosi, capito? Che doveva essere la prova dell'esistenza del sovrasensibile. Il metafisico trovava prova della sua esistenza attraverso lo strumento e il frutto della tecnologia, che era quanto di più illuminista e antitetico a questa idea. Beh, e andando avanti nei tempi, anche oggi, in cui tutto è possibile dal punto di vista della contraffazione, mio figlio tredicenne con Photoshop potrebbe fare delle sue foto qualunque cosa, continua a essere sintomo di certezza. Ecco, quello che sta succedendo è una cosa curiosa, perché in effetti la consapevolezza di massa della manipolabilità della fotografia, tutti quanti possiamo fare delle cose straordinarie con Photoshop a casa nostra, non ha intaccato retrospettivamente la santità della fotografia analogica. Cioè, paradossalmente, gli entusiasti della menzogna Photoshop e i nostalgici dell'immacolata percezione della fotografia analogica sono d'accordo su questo, salvano questi 170 anni di fotografie veritiere o presunte tali, come se fossero state una parentesi particolare, una parentesi magica nella storia. Ecco, io che sono non sono affatto convinto che sia in corso una rivoluzione, almeno non in quei termini lì, ho cercato di dimostrare che invece è da 170 anni che ci dice le bugie la fotografia, e soltanto riuscendo a riconoscere queste bugie, a conoscere come ci mente, riusciamo forse a costringere a rilasciarci un po' delle informazioni corrette sul mondo che riesce tutto sommato a darci ancora. Però tu intuisci che esista una profonda lussura, un profondo piacere nel essere contaminata delle bugie, quindi colui che come te riporta la verità viene visto come un rigido moralista, guai. Siamo abituati, ripeto, un po' stancamente, che la fotografia nasce per soddisfare il bisogno di realismo della borghesia dell'Ottocento. In realtà ci scordiamo che la fotografia nasce all'interno del regno dell'illusione. Daguerre era un illusionista di mestiere, era un imprenditore dell'illusionismo, lui aveva fatto fortuna con dei teatrini di ombre e di luci che simulavano alba e tramonti su cattedrali gotiche. La fotografia nasce perché, non perché si ha voglia di un maggiore realismo, ma perché si ha voglia di un realismo magico, diverso. E quindi dovremmo un po' spesso ricordarci che la genesi non è nella voglia di realismo, ma nella voglia di illusione. Devo dire che sentire fare delle letture del genere a me conforta, che io è una vita che gioco sull'artificio, gioco sull'illusione, gioco sulla rappresentazione contraffatta alla realtà. Lo stesso Melog altro non è che la contraffazione del golem, che è la più grande contraffazione dell'umanità moderna, è l'uomo che cerca di riprodurre un altro uomo. Ma devo dire che in questo piacere forse si cela il segreto del Mago di Oz. Ringrazio Smargiassi. Melog 2.0. La televisione, secondo me, adesso rischia di veramente di innescare una miccia, perché è una realtà completamente separata da quella che viviamo noi ogni giorno. E finché le persone non avevano fame, tutto questo andava bene, era divertente. Adesso invece rischia veramente di ogni giorno innescare rabbia nel vedere un mondo che è completamente diverso, completamente assurdo rispetto a quello che viviamo noi ogni giorno. Comunque, come i francesi alla fine presero la Bastiglia, secondo me ci sarà un momento dove saranno attaccati gli studi di tutte le trasmissioni televisive. Stefano Moriggi, sei convinto di quello che dice questo ascoltatore, che pensa ci sarà un assalto alla Bastiglia, come se la televisione dovesse essere abbattuta in quanto grande macchina dell'illusione? O sei più d'accordo con quello che diceva Smargiassi poco fa, che in realtà il grande strumento, la contraffazione, lui che è un radicale ricercatore di verità, è lo strumento che maggiormente dà felicità all'uomo contemporaneo? Ma sono assolutamente d'accordo con smargiassi. Noi abbiamo bisogno di finzioni e rappresentazioni almeno quanto del pane quotidiano, sono due cibi insostituibili, abbiamo bisogno di raccontarci, di essere raccontati, di essere confortati da rappresentazioni, anche da quelle apparentemente più lontane dal mondo che viviamo quotidianamente. L'autentica menzogna di cui parla Smargiassi è l'arte, in senso lato, nel senso più ampio del termine, la capacità di trasfigurare la realtà, è la possibilità dell'arte stessa di comunicare dei significati, è quello che aveva già intuito Aristotele, è quello che la fotografia fa, nonostante abbia questa apparenza mimetica di restituirti il reale per ciò che sì, è. Però scusami, l'arte, se non sbaglio, non ha mai preteso di essere l'iperrealistica copia della realtà, ha sempre impugnato la sua forte mediazione, il filtro della sensibilità dell'artista, dell'espressione di un'epoca. L'arte non ha mai detto io sono vera, io sono l'arte, sono la rappresentazione artistica, ti faccio vedere il mondo degli dèi passati, ti faccio vedere quello che è la mia visione di un paesaggio, di una figura umana e via dicendo. Invece certe rappresentazioni iperrealistiche e tecniche della realtà per un certo periodo hanno profetizzato finalmente l'avvento del vero o della prova della certezza della realtà. Chi ha compiuto il grande inganno? Chi è che ha ingannato l'umanità dicendo che improvvisamente si aveva la certezza e la realtà? Sicuramente a mio parere il grande inganno l'ha fatto chi si è fatto promotore della realtà o della verità in quanto tale. Voglio dire, non è proprio così vero che da sempre l'arte ha voluto rappresentare mondi trasfigurati. La prospettiva era per esempio quattrocentesca, un tentativo di restituirti il mondo per com'è, in realtà il mondo per come lo si vedeva, che non è esattamente la stessa cosa. Al di là di queste parentesi realistiche, diciamo così, anche di restituzione geometrica del mondo, c'è una distinzione che a mio parere deve essere sempre tenuta presente, quella tra realtà e quella tra verità. L'arte non ha mai rinunciato alla verità. La verità può essere la verità dei valori, dei significati su cui costruire una società, su cui rappresentarsi un mondo possibile. La verità è anche questa, la realtà è un'altra cosa. Ti faccio un esempio molto concreto. In televisione spesso, e qui entro in un campo più vicino al mio, si parla di scienza, di divulgazione scientifica. Nella maggior parte dei casi si fa una contraffazione, ma non della verità della scienza, ma della stessa scienza, della stessa pratica scientifica. Ci sono trasmissioni molto seguite che raccontano la scienza sempre velata da questo alone di mistero che è la più profonda contraffazione di quello che la scienza è. Penso che stai alludendo senza mezzi termini al meraviglioso Giacobbo. A Voyager, che è un viaggio, se vuoi, meraviglioso, ma in un'immaginazione che con la scienza non c'entra niente. Voyager non c'entra niente con la scienza, eppure è seguito perché è più rassicurante sapere che le piramidi arrivano dagli UFO che avere una competenza specifica su quello di cui erano capaci nei materiali e nelle geometrie di costruzione gli antichi egizi. Beh, vedo che ancora ritorniamo al punto di partenza. Noi tutti abbiamo bisogno di un grande atto catartico e mortificatorio, che alcune cose che appartengono al mondo palese della contraffazione però possano ricordarci qualcosa di vero e quindi abbiano un carattere nostalgico legato ai valori, legato a ciò che è buono, ciò che è vero, ciò che appartiene a dimensione profonda e sincera di se stessi. La televisione è indubbiamente uno spaccato della realtà. Io ho 40 anni e perciò mi ricordo perfettamente che la televisione di un tempo lasciava spazio alla fantasia. Secondo me la differenza tra la tele fino a 10-15 anni fa e quella che c'è adesso è che allora parlava o cercava di parlare di quello che succede, di creare un mondo attorno a quello che c'era intorno a noi. Adesso parla solo di se stessa. È per quello che l'ho buttata via. Quale meravigliosa e callipigerrima sacerdotessa dell'irreale, se non Marianna Aprile, redattrice di Novella 2000, ancora calda dell'averci rivelato Corona ignudo che fa sesso con Belen Rodriguez, un servizio che nulla lascia alla fantasia. Marianna, tu in quanto appunto confezionatrice quotidiana degli aspetti in realtà irreali, anche se legati alla loro intimità, dei grandi della storia contemporanea, in fondo fai un'operazione di grande conforto per l'umanità. È esattamente quello a cui sono preposti i giornali in generale e i giornali, diciamo, di cronaca rosa e di gossip in particolare. Cioè, noi siamo investiti del compito di far sognare, di rendere in qualche modo paradossali le cose che la gente vive ogni giorno. Quindi Novella 2000, Novella 2000, per cui lavori te, e giornali simili in realtà sono la più gradita delle liturgie per l'uomo contemporaneo, quelle che confezionano come reale degli aspetti a volte paradossali, a volte reali, o legate all'intimità, agli amori, ai trascorsi, ai tradimenti degli dèi. È come tu fossi una sorta di narratrice epica degli amori, delle vicende divine. Esatto, prima diciamo, nell'antica Grecia si andava, no, a teatro, e anche nella commedia, nelle situazioni paradossali si aveva a che fare con grandi verità che in qualche modo venivano portate all'eccesso per essere svelate, e in qualche modo è quello che facciamo noi. Cioè, noi prendiamo una foto, lasciamo perdere quelli corona su cui c'era molto poco da immaginare, ma su una foto di uno sguardo tra la tizia e il tizio si mette un'enorme lente di ingrandimento e si ipotizza un amore folle e assolutamente onirico anche, no? Che poi nella maggior parte dei casi è anche reale, perché nel momento in cui c'è la foto spesso c'è anche il grande amore. Però il lettore ha modo di sognare a partire da uno sguardo, da una carezza, da una circostanza in altre occasioni innocente. Senti, tu sei giovane, Marianna, però anche la stampa, oggi si chiama stampa di gossip, una volta si chiamano i giornali scandalistici e via dicendo, ha avuto una sua evoluzione stilistica. Su te oggi il tuo lettore medio, ma si pone più il problema di quanto ci sia vero in quegli amori, in quegli abbracci, o quanto ci sia ricostruito, o vuole semplicemente vivere anche lui la grande illusione, il grande romanzo che i grandi della televisione, del cinema, dello spettacolo possono avere turbamenti fisici come ce li ha lui guardando la vicina di casa, guardando il lattaio e via dicendo? Guarda, io credo che con tutte le sacrosante dovute differenze il meccanismo sia lo stesso che c'è con la letteratura. Se io leggo un grande autore, è un grande romanzo, una grande storia d'amore raccontata benissimo, molto meglio ovviamente di come con protagonisti forse più interessanti rispetto a quelli di cui ci occupiamo quotidianamente, ma mi identifico, sogno, vivo emozioni senza pormi il problema che siano finte. Coi giornali c'è una pia illusione ulteriore, cioè coi giornali rosa, cioè che quei protagonisti esistono davvero, hanno un nome, un cognome, un indirizzo, e ci sono delle foto che li ritraggono insieme, quindi è in qualche modo un passo avanti rispetto all'identificazione che si ha con un personaggio letterario. È quello il grande, diciamo, il grande inganno e il grande segreto allo stesso tempo, perché tutti sanno che quel grande amore domani può finire perché magari serve a promozionare un film o una pièce teatrale o semplicemente un passaggio televisivo. Quindi io, lettore di giornale scandalistico, di Novella 2000 o quel che è, leggo del grande amore tra Pinco Pallino e Pinca Pallina, ma in fondo so che, siccome stanno facendo la fiction insieme, forse tutto non è tutto oro quel che riluce. Grazie allora, Marianna Aprile. Ringrazio Fabrizio Intonti e Paolo Corleoni che hanno contribuito a questa trasmissione. Appuntamento è a domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111.